Aiutami a raccogliere le nuvole, trattienimi o stringimi di più. Regalami silenzi di lunghi pomeriggi afosi, abbracciami finché il tuo cuore non si sarà reso diversi e tu resti. Mi dai oro bianco e catrame. Le parole dire quello che dai. Ti rincorro, ti nascondi, mi accarezzi, tocco il fondo, ti attraverso, non rispondi, sorrido mentre ti volti. Mi riprendi, non ascolto, ti ripeti, non mi offendo, senza fretta tu mi osservi, disarmato non mi arrendo, vado e tu resti. Mi dai oro bianco e catrame. Mi fai bene anche se fa male. Tu hai notti buie, hai colori. Tu dai ingenuità e rumori. Non possono le parole dire quello che dai. Stabili. Possono